Letture di Radio 24. Anche in Birmania arriva la minigonna, ma il governo dei generali non approva perché la considera un simbolo delle culture aliene decadenti. Il fenomeno era passato finora relativamente inosservato. La gente di Rangoon, alle prese coi problemi quotidiani, sembrava non essersi accorta che in cima ai pensieri di molte giovani ragazze dell'ex capitale birmana non c'erano le prime elezioni indette a novembre dai generali al potere, bensì la lunghezza delle loro gonne. In un paese dove l'eleganza femminile, dall'icona dell'opposizione a Aung San Suu Kyi, alle mogli dei militari, è associata ai rigidi longhi di cotone arrotolati alla vita e lunghi alle caviglie, la rivoluzione della minigonna è esplosa come un caso sociale e politico. L'organo ufficiale del governo militare, The Light of Myanmar, è giunto a pubblicare un commento per dire che culture aliene decadenti come gli abiti discinti sono inaccettabili nella società birmana e che ognuno deve prendere misure adeguate per salvaguardare la nostra tradizione. Ma per il regime la sfida in atto è più difficile da vincere di un'elezione a esito scontato. È stato il successo dei canali televisivi sudcoreani ad aprire la breccia nel tradizionale muro di riservatezza delle giovani birmane. I siti internet con la moda dei paesi asiatici ricchi, e va da sé di quelli occidentali, sono sempre più cliccati negli internet caffè, dove ragazzine in pantaloni attillati e gonne ben sopra il ginocchio non si fanno più scrupolo di accavallare le gambe incuranti degli sguardi di riprovazione degli anziani. Dicono che la maggiore rilassatezza nei costumi sia coincisa con il trasferimento, iniziato 5 anni fa, dei generali e della loro corte nella nuova capitale, Naipidav, 700 chilometri a nord di Rangoon. A confermare la maggiore liberalità, il successo del tour di una disinibita cantante birmana emergente, Chan Chan, dichiaratamente ispirata a Beyoncé, Celine Dion e alle colleghe coreane. Gonna mozzafiato e maglietta attillata luccicante, Chan Chan ha spiegato che in questi ultimi anni le donne del suo paese hanno preso sempre più confidenza, conoscono i limiti e hanno fiducia in se stesse. Nessuno ti fissa più quando cammini in short, assicura, e ormai siamo sempre di più a indossare la minigonna. Eppure, appena all'inizio dell'estate scorsa, le ire dei tradizionalisti si erano appuntate su una giovane modella e stilista, Honey Ho, ritratta con un bikini relativamente casto per standard occidentali. Le sue foto, cliccate online da migliaia di giovani, ma non solo, hanno scatenato reazioni contrastanti di entusiasmo e raccapriccio. Honey Ho si è difesa dalle email di insulti, dicendo che per lei si tratta di creazioni d'arte e di lavoro. Una donna birmana, ha spiegato, è considerata immorale se segue le mode moderne, ma un uomo può fare ciò che vuole. Si riferiva al fatto che i suoi coetanei, come le ragazze, stanno a loro volta abbandonando senza scandali i poco pratici longhi. Non penso, ha commentato l'analista Aung Naing Oh, che i militari potranno fermare un fenomeno come questa invasione culturale. Le giovani generazioni vogliono qualcosa di diverso, dopo essere state represse troppo a lungo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raimondo Bultrini, La rivoluzione della minigonna, l'ultima sfida della Birmania da Repubblica dell'8 ottobre. Letture di Radio 24. Quando si parla di intolleranza verso le altre religioni e le altre culture, il termine più usato è islamofobia. Ma sarebbe più corretto parlare di cristianofobia, dato che su 100 morti per odio religioso nel mondo, 75 sono cristiani. Su 100 morti per odio religioso, 75 sono cristiani. No, non è la Roma di Nerone o Domiziano, è l'istantanea 2010 di una realtà spesso ignorata, respinta o semplicemente negata. A registrarla però ci sono statistiche concordanti di fonti diverse. Dall'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, allo Human Rights World Watch, a propaganda fide. A sfatare luoghi comuni e false certezze però c'è dell'altro, questa volta fornito da Pew Forum, l'organizzazione americana che ha pubblicato il primo rapporto sulle restrizioni religiose nel mondo globale. Dalla ricerca fatta in 198 paesi, cioè sul 99,5% della popolazione mondiale nel triennio 2006-2008, emerge che in testa alla classifica di intimidazioni e ostracismi vari ci sono sempre loro, i cristiani, con il 67% dei paesi. Seguono i musulmani con il 58%. Buoni ultimi gli ebrei con il 38%. Si parla spesso di islamofobia, nata dalle ceneri delle Torri Gemelle e poi cresciuta sotto la minaccia costante del terrorismo. E se invece fosse la cristianofobia il nuovo salto nel buio del XXI secolo? Per l'Europa in profonda crisi di valori, che rinnega le sue radici, si vuole laico-relativista, ma è destinata ad assorbire grandi flussi migratori, cioè a diventare multietnica e multireligiosa. La prospettiva pare fatta apposta per complicarle la vita, il ripensamento di una società condannata, volente o nolente, a trovare nuovi equilibri. Persecuzioni contro i cristiani. A sbattere il tema sulla ribalta è stato il Parlamento europeo, su iniziativa di Mauro Mauro, PDL, autore tra l'altro di un libro fresco di stampa, Guerra ai cristiani. La libertà religiosa non è come le altre, spiega, perché è quella da cui passano tutte le altre, perché rapportarsi con Dio significa anche sottrarsi agli abusi del potere politico. È stato vero con nazismo, fascismo e comunismo. È vero oggi con il ritorno del fondamentalismo che usa Dio come progetto di potere. Gli anni 90 sono stati quelli del genocidio dei musulmani, della strage di Srebrenica. Il primo decennio del nuovo secolo vede il martirio dei cristiani. Sarebbero ben 170.000 ogni anno i perseguitati per la loro fede, vittime di violenze, confische, distruzioni di chiese e scuole, di libertà negate perché minoranze diseredate oppure troppo abbienti e istruite. E questa volta non parlano fredde statistiche, ma la voce di testimoni. Voce sommessa, intimidita dalla convivenza con paure e orrori continui. Racconta Louis Sacco, arcivescovo dei Caldei di Kirkuk. I cristiani sono arrivati in Mesopotamia nel primo secolo. È stato San Tommaso il primo evangelizzatore. Divennero metà della popolazione irachena e parte di quella iraniana. Erano ancora il 20% nel secolo scorso. Oggi sono 400.000. Tra matrimoni e conversioni forzate, violenze e intimidazioni, molti lasciano il paese. Il nostro futuro dipende ormai dalla maggioranza islamica. Gli estremisti vogliono imporre la Sharia, uno stato medioevale. Ma cosa sarebbe il Medio Oriente senza i cristiani? Dal 2003, dalla guerra anti-Saddam a oggi, sono stati uccisi 825 cristiani. Gli americani sono responsabili del nostro futuro, dice Sacco. Arriva dal Sudan Edward Hilboro Kussala, vescovo della diocesi cattolica di Tombura Yambio. Arriva dal paese dove in agosto sono stati crocefissi 7 cristiani. Solita storia. I cristiani sono il 30% della popolazione. Chiedono di vivere liberi in uno stato multietnico e multireligioso. Invece dall'83 vige la Sharia. Chi non è islamico è cittadino di seconda categoria. Ormai si parla solo arabo. Si è dimenticata la nostra eredità africana. Sono sudanese. Il mio paese mi proibisce di costruire una chiesa. Il professor T.M. Joseph del Newman College di Todupuzza, India, parla di un centinaio di missioni bruciati dagli estremisti indù, suore violentate, fedeli ammazzati. Ma Gandhi diceva che le religioni sono complementari tra loro. Kok Ksor, da anni in esilio in America, ha deciso di accusare di genocidio della comunità indigena montana il governo vietnamita. Siamo cristiani. Ci hanno confiscato tutto. Chiediamo il diritto di coesistenza e libertà religiosa secondo la Carta dell'ONU. 203 villaggi hanno aderito alla nostra campagna. Allora il governo ha inviato i soldati. Hanno buttato prodotti chimici, arrestato e torturato i nostri costringendoli a confessare. Vogliono sottomettere alla parola del partito invece che a quella di Dio la nostra chiesa evangelica. Aiutateci. Sono il 32% del totale i paesi con le più forti restrizioni religiose, che però corrispondono al 70% della popolazione mondiale. I peggiori sono Arabia Saudita, Pakistan e Iran, India, Indonesia, Iraq e Afghanistan, dice il rapporto Pew. Tra i più tolleranti c'è l'Italia con Brasile, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica. Non è una buona ragione per scegliere l'indifferenza. Potremmo diventare noi il Sudan, l'India o l'Iraq di dopodomani. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Adriana Cerretelli, Cristiani, martiri del XXI secolo, dal Sole 24 Ore dell'8 ottobre. Ad un anno dalla sanatoria per colfe badanti, in città come Milano e Roma, soltanto metà delle pratiche sono state evase, ma a Napoli e Torino la percentuale scende al 25%. Natalia, colf ucraina, è in Italia senza permesso da 5 anni e da 5 anni cerca invano di mettersi in regola. Approvato con il decreto flussi del 2007, ma della domanda si sono perse le tracce. Ha riprovato con i ripescaggi del 2008 e di nuovo è rimasta in attesa. Così nel settembre 2009 ha presentato la domanda per la sanatoria, quella che secondo il Ministero degli Interni doveva essere evasa entro quest'estate. E invece è sempre in attesa. Esattamente un anno fa scadeva il termine per la presentazione delle domande. I dati del Viminale dicono che solo il 59% delle 295.000 colf e badanti che ci hanno provato è arrivato a firmare un contratto. Le percentuali variano molto da prefettura a prefettura. Dove sono state presentate molte domande, i ritardi sono più vistosi. Maglia nera a Napoli e Torino, 25% di pratiche concluse. Milano e Roma sono circa a metà del lavoro. Per di più, in molti uffici sono a rischio i contratti di 1.300 precari che si occupano proprio delle regolarizzazioni. E poi ci sono le domande presentate all'ultimo minuto, che dunque devono ancora essere esaminate e dove si nascondono molti falsi. Sciacalli che chiedevano fino a 5.000 euro per presentare false domande, destinate quasi sicuramente a essere scoperte, rallentando ulteriormente il lavoro delle prefetture. Insomma, per Natalia potrebbe esserci ancora un annetto di attesa, ma ormai, suo malgrado, ha imparato ad avere pazienza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lorenza Ghidini, Sanatoria Colf e Badanti. Chi l'ha vista? Da Vanity Fair del 6 ottobre.